Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Torniamo questa sera a occuparci di Europa e dei possibili scenari che potrebbero aprirsi al termine di un anno in cui si sono celebrate importanti elezioni politiche in Francia e in Germania prima di tutto, e in attesa che la prossima primavera siano gli elettori italiani ad esprimersi. La scorsa settimana, in compagnia dell'economista Alberto Quadrio Cursi, abbiamo focalizzato l'attenzione soprattutto sui risvolti economici connessi all'esito delle elezioni tedesche del 24 settembre. E poi ci siamo soffermati su quanto ha affermato in tema di integrazione europea il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso alla Sorbonne del 26 settembre. Oggi torniamo sull'argomento in compagnia dello storico Valerio Castronovo. Buonasera professore e benvenuto. Buonasera a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Allora, vorrei partire prima di tutto da quanto lei ha scritto sul Sole 24 Ore il 29 settembre. Con il programma per un rilancio dell'Europa enunciato da Emmanuel Macron nell'anfiteatro della Sorbona, la Francia è tornata a esercitare quel ruolo di guida politica della comunità europea che si era attribuita fin dai suoi esordi nel 1957, prima dell'avvento sulla scena di De Gaulle. Il generale consolidò poi questa vocazione ponendo di suo pugno le basi dell'asse franco-tedesco, sancito dal patto d'amicizia firmato nel gennaio 1963 con Adenauer. Del resto, soltanto lui, che era stato a capo della resistenza francese contro la Germania nazista, avrebbe potuto concepire e giustificare agli occhi dei suoi connazionali un trattato del genere, di portata storica. Inoltre, il generale era convinto che il corso dell'economia procedeva di norma in conformità alle direttive della politica, come una sorta di fureria nei riguardi dello Stato Maggiore dell'Esercito. Dalla fondazione della Quinta Repubblica in poi, gli inquilini dell'Eliseo hanno continuato perciò a orientare la politica estera francese in conformità a questa visione del ruolo del proprio paese. Ciò che li ha portati negli anni 70 e 80, da un lato, a non condividere una causa europeista di carattere federale e quindi a bloccare la realizzazione degli ideali del manifesto di Ventotene, dall'altro a rendere sempre più strette le intese economiche con la Germania di Bonn in funzione di una gestione equilibrata dei rispettivi interessi. Cominciamo, professor Castronovo, a commentare queste sue affermazioni con una domanda. La Francia di Macron, secondo lei, è veramente in grado di esercitare un ruolo di leadership in Europa, nella nuova Europa? Ma io penso che quantomeno ritenga di non esercitare forse completamente, insomma, queste sue funzioni e di coronare questa sua ambizione. Però, insomma, alla luce del risultato delle elezioni politiche tedesche, la Merkel si è indebolita, insomma, non appare più quel custode è quasi sacrale comunque di fatto diciamo della causa europea, non tanto della causa europeista, perché in pratica alcuni politici e intellettuali tedeschi avevano già denunciato negli anni 90, anzi negli anni 90 e ancora dopo l'inizio di questo secolo, che insomma la causa europeista, così come concepita un tempo da Adenauer, ma anche da Schmidt, da alcuni socialdemocratici tedeschi dello stesso Brandt, certo. Ebbene, questa fiducia e questa, insomma, si era affievolita, se non era venuta meno del tutto. Certo, certo. Adesso vorrei soffermarmi un attimo sulla Germania, ascoltando questo altro passaggio del suo articolo del 29 settembre sul Sole 24 Ore. È molto interessante perché ripropone una sorta di storia sintetica di quel che è accaduto. È vero che nell'ambito della CE alcuni partner erano insofferenti nei confronti del veto posto da Parigi alla prospettiva di una vera e propria unione politica. Ma in pratica la Germania, che pur era favorevole a un'integrazione di stampo federalista, non aveva mai spinto a fondo il pedale in questa direzione, in quanto alla sua ascesa a livello economico non aveva corrisposto un'adeguata influenza sul piano politico. D'altra parte, quando dopo la caduta del muro di Berlino la riunificazione nazionale aveva fatto della Germania lo stato più grande e popoloso nel cuore dell'Europa, la Francia era stata pronta a proporre una robusta contromisura. Fu infatti Mitterrand a lanciare nel 1990 l'idea di una moneta unica europea per legare la Germania unita riemersa al di là del Reno al carro delle istituzioni comunitarie. Per Parigi, come per altre capitali, non poteva infatti bastare che Kohl avesse provveduto a dichiarare, sulla scia di quanto Thomas Mann aveva espresso a suo tempo, che non voleva assolutamente un'Europa tedesca, bensì una Germania europea. L'abbandono torto collo del marco da parte della Germania venne poi definito da Kohl il risultato di un onesto baratto in cambio del benestare di Parigi alla riunificazione tedesca. Ma intanto la Francia aveva così potuto registrare con sollievo il progressivo superamento di un regime monetario europeo ruotante intorno al marco e dominato dalla Bundesbank. In qualche modo, professor Castronovo, siamo ancora lì a quanto Thomas Mann aveva espresso, cioè siamo in presenza di un'Europa tedesca o di una Germania europea? Che dice lei? Io avevo concluso il mio pezzo, sì, il mio articolo, dicendo che si sta profilando una sorta di Europa alla francese. Ecco. Ecco, io credo che questo sia pur sempre il fil rouge dei nostri amici transalpini, perché in effetti da una parte bisogna dire che in base alla Costituzione federale tedesca di Karlsruhe la Germania non può esercitare fuori dai suoi confini una politica di influenza che vada al di là, diciamo, dell'economia, del settore economico. Non può intervenire sul piano militare in certe operazioni, sia pur sotto le insegne dell'ONU o sotto le insegne persino del Patto Atlantico. Cioè, insomma, la Germania si deve limitare a funzioni militari tipo difensivo, e poi la Germania ha sempre tenuto con i sensi di colpa che aveva, diciamo, la classe dirigente, almeno la passata classe dirigente, i sensi di colpa per i misfatti della Germania nazista, aveva sempre tenuto a una sorta di copertura politica da parte della Francia, sì, e che la poteva assicurare nella CE e nell'Europa anche dei 12 dopo l'ingresso, tanto più dopo l'ingresso della Spagna ex franchista, del Portogallo, di Salazar, che poteva esercitare soltanto la Francia, nell'ambito poi della CE, nell'ambito anche dell'Unione Europea e nell'Eurozona, tanto più perché l'Inghilterra aveva sempre tenuto a ribadire il suo rifiuto di firmare un'unione politica in senso stretto, certo, aveva badato soltanto, diciamo, che sopravvivesse e si sviluppasse un mercato unico per i suoi capitali, le sue imprese. Sì. Quindi in effetti, secondo me, di fatto, la Germania, al di là, insomma, di un'eminenza, di una preminenza economica, è rimasto, come si dice, un egemone riluttante. Certo. È riluttante a fare il passo sul terreno politico e quindi a esercitare una vera e propria leadership, e cioè assumere delle vere e proprie responsabilità anche in politica estera, quale, diciamo, Tessignano, quale, diciamo, apripista di un'Europa su base federale, che d'altra parte la sua classe dirigente, come dicevo prima, oggi tutto sommato non professa più la meta finale. In pratica credo che sia soltanto il leader della BCE, Mario Draghi, certo. Proprio perché a nutrire, insomma, l'idea di un'unione politica, anche perché una moneta unica, come si fa a reggere, a continuare a reggersi senza uno Stato unico, uno Stato politico, uno Stato su basi federali comunque. È il problema di partenza di questa nostra unione zoppa in qualche modo. Sì, è un'unione incompiuta e zoppa. E d'altra parte ormai a zoppicare sono è da 30-40 anni che si continua a zoppicare. Sì, sarà... Tutto sommato è questo il punto. Sarà venuto il momento di cominciare a camminare su tutte e due le gambe. Su tutte e due le gambe, ma intanto sarebbe importante che all'unione, diciamo, all'unione monetaria seguisse adesso l'unione bancaria e l'unione fiscale. Certo, infatti. E quindi, ecco, e poi d'altra parte si ritorna sempre alle cooperazioni rafforzate, che era quanto la Francia concepiva nell'ambito di una confederazione intergovernativa tra gli stati nazioni europei. E, insomma, adesso persino bisogna cercare di salvaguardare gli stati nazionali, perché mi sembra che stanno risorgendo o comunque spuntando tante piccole patrie, e questo certamente è un dato di questi ultimi tempi, e secondo me c'è un altro dato che sta sfaldando in pratica la solidarietà transatlantica. Del trattato di libero scambio fra l'Europa e gli Stati Uniti non si parla più da tempo, d'altra parte credo che sia stato ormai relegata in soffitta questa prospettiva. Sì, il cosiddetto TTIP che è finito ormai è finito nei cassetti. Professore, abbiamo esaurito il nostro tempo, la ringraziamo moltissimo per essere stato con noi questa sera e le auguriamo buona serata. Anche a tutti noi e a tutti voi. Grazie ancora.